città e te mi spermano dall'otto ancora la felicità. E tuo sguardo non sente mescio la fretta e l'infelicità. E resti vicini con bambini la felicità, felicità, felicità. E un cusino di plume, l'acqua del fume, c'è pace, c'è va. E la pioggia si sente dietro l'antenne la felicità. E la passare la luce si per far salvare la felicità. La felicità, felicità. Ma già hai fame e la pazzia. Ah sì. C'est pas le bon tempo là. Attends. Just a minute, I'm looking. Pourquoi j'ai pas le bon tempo ça? C'est quoi? 100. Ah, 105. Just a minute. I try to 105. Attends, 105. Ah, c'est 105. C'est 105 ? 105. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a un problème. C'est pas ce bon. Ah, je sais pas ce que c'était. C'est... Shuttle ? Shuffle ? Ok. Problème la batterie. Oh, il y a un problème là. Ok, c'est ça, hein? C'est ça? On va essayer. On va essayer. Are you ready? One, two, three, four. One, two, three, four. Felicità, e te ne insperma non de lontano la felicità, e tuo sguardo non sente in mezzo la gente la felicità, e restavi simili con bambini la felicità, felicità, felicità, e un cuscino di plume l'acqua del lume c'è pace va, e la pioggia se senti dietro la terra la felicità, e la passare la luce per fare a casa la felicità, felicità. Felicità, un bicchiere di vino con panino, la felicità, e lasciarti la vetrina dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due quando non passi, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore, ce va come un pensiero, c'è già di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio del sole più caldo, ce va come un sorriso, c'è già di felicità. Felicità, in un spiaggio di notte non lasciate la felicità, in un mano un cuore piena d'amore, la felicità, e l'aspetta l'oro per fare ancora felicità, le felicità. Senti un amore che già la nostra canzone d'amore ce va, come un pensiero senza di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo, ce va come un sorriso, ci sa felicità. Felicità, una spiaggia di notte non lasciava la felicità, in un mano c'è un cuore piano d'amore, la felicità, e l'aspetta la loro per fare ancora felicità. Allez, chantez! Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore, ce va come il pensiero, c'è sa di felicità. senti nell'aria c'è già un raggio di sole, più il caldo ce va, come un sorriso c'è sa felicità. All'interno. J'espère que pour vous les musiciens c'est la felicità, la dolce vita, l'Italie. Je vous souhaite que du bonheur. Merci beaucoup à toi, Psy, de l'Ukraine. Solidarité totale avec l'Ukraine et la France, bien sûr. Toutes mes pensées. Sois fort, mon ami. Merci. Merci. Merci. Psy. Merci. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. À bientôt. Bientôt. À bientôt. Bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Thank you.